programa On The Road. If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time. And now your favorite DJ. Eccomi. 20 minuti di sigla. È incredibile. Iniziamo. Vi regalo il primo disco di oggi. È un flashback. Flashback. Inizieremo anche con i saluti, visto che oggi è il primo giorno della settimana, lunedì 27 febbraio. Di oggi un classico, un flashback che stiamo andati a ripescare indietro nel tempo, anche se poi di classico non si tratta, però è sempre stato un disco che ha segnato un po' un periodo, perché ricordo che in quell'estate, fine anni 80, questo era uno dei dischi più ballati, Ace of Base, All That She Wants. Ben ritrovati, buon inizio di settimana, soprattutto sui 101.4, questo è CRM Happy Radio, la radio che si sente e si vede. Eventualmente potete anche vederci, perché si sente e si vede, perché oggi ormai oltre a sentirci potete anche vederci, e lo fate sul nostro sito crmpiradio.it. fra l'altro là la possibilità di richiedere la vostra musica, quindi oltre ad ascoltarci, oltre a vederci, c'è anche una finestrella per gli appositi messaggi e richiedere la vostra musica. A tal proposito devo salutare un nuovo arrivato arrivato un nuovo inquilino all'interno di On The Road. Ciao Nino, altro tifosissimo della Juve. Abbiamo sofferto un po' sabato, poco poco, ci sono state le critiche, ma di questo ne parleremo più in là. Però fatto sta che la Juve consolida ancora questa sua imbattibilità, rimanendo saldamente là in vetta alla classifica, se non prima. Però abbiamo un punto meno del Milan, ma una partita in meno, quindi la possibilità di andare avanti, scavalcare questo squadrone, quella è il Milan, perché devo ammetterlo, è una delle poche squadre che ci ha messo in difficoltà effettivamente. Però poi tutto il secondo tempo diciamo che la Juve ha giocato bene, a parte quel gol che c'era, perché è inutile dire di no, è evidente, il gol c'era, però c'era anche quello di Matri col senno di poi, ma se era 2-0, beh, vediamo un po' come andava a finire. Fatto sta che ci sono state non poche polemiche, ma dicevo, di questo ne parleremo nel momento opportuno con il mio opinionista sportivo, ovvero Rambo. Allora, vi ho dato le coordinate, potete anche contattarci tramite il nostro profilo Facebook, quindi CRM Piredi. Adesso un attimo di pausa e poi vi regalerò subito un disco bellissimo, quello di Adele, che si chiama Tani On The Road. Turning tables. Certo che non è un periodo felice, non ho un per Adela, voglia Adela se è un periodo felice, no, per la Costa Crociere non è un periodo felice perché adesso, dopo il naufragio della Concorde, un altro incidente si è verificato su una nave da crociera della compagnia Costa. Stavolta è l'Allegra che ha avuto questo piccolo problema, l'incendio, un incendio a bordo, sarebbe stato spento, non ci sarebbero feriti, meno male. A bordo ci sono 10.049 persone, o 1.049 persone, 10.000 sono un po' tante. La nave ha lanciato il segnale di richiesta di soccorso, la compagnia e le autorità competenti sono attive per fornire il supporto necessario in funzione dell'evolversi della situazione, il tutto quando la nave si trovava presso l'Oceano Indiano, distante circa 200 miglia dall'arcipelago. Quindi veramente un periodo non felice per la Costa Crociera, però stavolta credo che hanno fatto una cosa istantanea, subito al volo l'hanno fatto lanciare il messaggio di soccorso, non come quando è accaduto il disastro con la Concordia, che hanno perso tempo, stavolta un po' scottati dalla situazione. Hanno lanciato subito l'SOS, il console delle isole dice gli italiani a bordo stanno bene, la Costa sospende il servizio, naturalmente veramente periodo negativissimo, vedremo un po' come andrà a finire. Com'è negativo il momento di Madonna, soprattutto dopo questo singolo, ma ve ne parlerò dopo, chissà cosa si aspettava da questa canzone Madonna. Give me All Your Lovin'. Questo è il singolo nuovo di Madonna. Dicevo prima, chissà cosa si aspettava Madonna da questo singolo, visto che anche l'ha presentato durante il Super Bowl. Sì che sarà godendo come un riccio anche Lady Gaga, perché è fresca di quella stoccata sacrosanta in diretta mondiale da parte di Madonna su Born This Way. Il motivo? Nella quartier generale di Miss Ciccone le cose non stanno andando a gonfie vele. Infatti la bella Give Me All Lovin' sta volando molto molto bassa, a bassa quota soprattutto, lo dicono i numeri che abbiamo difeso in passato, perché sono lo specchio della realtà, ossia di ciò che la gente ama e compra su iTunes. Ovviamente possono piacerci o non piacerci, magari stupirci o talvolta specie da noi farci vedere sul gusto. Quindi probabilmente sta viaggiando malissimo questo nuovo singolo, e infatti Madonna sta correndo subito ai ripari e sta già facendo uscire un nuovo singolo che si chiama Girls Go Wild, Wild, che dir si voglia, e vedremo un po' come andrà a finire questa storia relegata a Lady Ciccone, che ripeto, con l'uscita di questo singolo, ma soprattutto con un banco di lancio davvero non indifferente quale il Super Bowl, aveva immaginato chissà cosa. 17:26, buona serata sulla radio che si sente e si vede, CRM Piredio. Ieri c'è stata la notte degli Oscar e quindi ora Michael Bublé, Hollywood. Could you be a teenage idol? Could you be a movie star? So you want to be a rock star with blue-eyed bunnies in your bed? Well, remember when you reach that you sold yourself for this, you'll be famous 'cause you're dead. So don't go higher for desire. I don't want to take you dancing when you're dancing with the world. You can flash your caviar into a million-dollar car. I don't need that kind of girl. But could you be the next sensation? Or will you set the latest style? You don't need a catchy song, 'cause the kids will sing along when you sell it with a smile. So don't go parlato di Hollywood, dobbiamo per forza di cose forse di cause maggiori parlare di Oscar, notte degli Oscar ieri notte, Le previsioni della vigilia confermate per la notte degli Oscar. Il trionfatore della serata è stato il film. È stato un film nel 2012, ha vinto un film muto e in bianco e nero. Il film è di Michela Zanavicius, spero di averlo pronunciato bene. Si chiama The Artist, che si è preso le statuette più importanti, ovvero miglior film, miglior regia, attore protagonista con Jean Dujardin. E soddisfazione per l'Italia anche nella notte degli Oscar. Oscar a Ferretti allo schiavo per la scenografia di Hugo Gabré. Marilyn Streep è al suo terzo Oscar come miglior attrice. Il grande sconfitto è quello Hugo Cabré di Martin Scorsese, che alla vigilia si presentava con il maggior numero di nomination, 11. Non che il film di Martin Scorsese non abbia fatto incetta di statuette, 5, ma tutte le, in categorie minori, prettamente tecniche, come il sonoro, il montaggio sonoro e la fotografia, oltre naturalmente a quello per la scenografia, che rappresenta anche l'unico lampo italiano in quella edizione, che ci vedeva fuori dalla corsa a miglior film straniero. D'altro canto, dopo l'incoronazione ricevuta il Golden Globe ai César, The Artist era dato un po' da tutti alla vigilia come il favorito numero uno. La serata condotta con la consueta verve da Bill Crystal ha visto la partecipazione di buona parte delle star, di, star system di Hollywood. Si è aperta con la consueta parodia dei film più significativi dell'anno, opera del conduttore, aggiunto alla nona partecipazione, che questa volta ha anche arruolato outsider come Tom Cruise e Justin Bieber, toni leggeri, gag continue necessarie per rendere meno noiosa la lunghissima procedura di premiazione. Sapete, è una notte lunga, la gente che sta seduta là effettivamente ne soffre un attimino, un po' noioso, poi vede sempre le stesse facce, almeno chi è abituato. Un premio anche per Woody Allen e il suo Midnight in Paris, che ha vinto per la migliore sceneggiatura originale, scelta coraggiosa dell'Academy per quanto riguarda il film straniero, che ha visto il trionfo di A Separation, la piccola iraniana Asher Fardy. Non so se quanti di voi l'hanno seguito nella notte degli Oscar, ma la cosa strana è quando hanno dato la il premio anche per Woody Allen e lui, come al solito, non si è presentato. Qualcuno aveva pensato, vabbè, lo mettiamo là, poi verrà a prenderselo. Invece Marilyn Streep, quando l'hanno premiata, si è presentata e ha detto: non vorrei che gli americani pensassero, che palle, sempre lei qua presente, ma basta ora. E beh, d'altronde, se lei... On the road. Ti ricordi l'amore, quella luce dell'amore? sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo, tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai. Mi manca, sai, il giocabè, il giocabè. E sì, e no. Chocaback, il Chocaback, il Chocaback, di più, di più. Ai ai ai. Ma poi dico, ma la Juve che colpa ne ha se l'arbitro non ha visto il gol? Voglio dire, cioè, ma veramente, ragazzi, cioè, ma stiamo scherzando? Poi dico, se era così lampante la supremazia del Milan, allora diceva bene, dai, squadra che ha stradominato, e allora, ma quando mai? Dai, dai, ma poi parla il Milan, dai, ne ha avuto di favore quest'anno il Milan, adesso essere sinceri, poi adesso ogni cosa detta dalla Juve viene amplificata, no? Tipo Conte che va a parlare con Van Bommel e subito si scatena una bufera, perché Conte è andato a chiarire, a chiarirsi con Van Bommel, poi come si chiama? Telegatti. Ma che telecronaca, veramente, ragazzi, è una cosa orribile, orribile. Va bene, il gol non c'era, o meglio, il gol c'era, era dentro, 50-60 centimetri dentro, va bene, giusto, ma era gol anche quello di Matri. L'arbitro è stato condizionato poi a non dare il gol di Matri, perché Galliani era sceso giù negli spogliatoi quando è andato a posto fare l'arbitro, è andato da Conte, ha detto che la Juve questa era mafia, ma dai, adesso immaginate se ogni volta che c'è una indecisione arbitrale tutti i dirigenti di una squadra si possono permettere di andare giù a parlare con la ma basta, ma basta, vinciamolo sul campo lo scudetto, non con queste cose, non credo sia giusto, dai, dai. Noi parliamo invece di bella musica, quello che sappiamo far meglio, regalarvi grandi successi, come in questo caso si chiama Charlie Brown, Coldplay. What the afternoon to set me free. Di ritorno da un fine settimana alquanto intenso come al solito. C'è stata la prima semifinale di Italia's Got Talent e poi ne parleremo perché la Maria De Filippi è scoppiata in lacrime. La semifinale di Italia's Got Talent si è svolta tra colpi di scena a suono di televoto e gli eliminati, ecco perché probabilmente lei si è messa a piangere. Mentre aspetto che tutto finisca e ti guardo perché sei perfetta, sei la cosa che più mi spaventa. Mentre togli il vestito di fretta, non rimane che la meraviglia che la tua pelle nuda risveglia. Sto precipitando, amore mio, come la pioggia sul tuo viso, come il cielo quando crolla all'improvviso. Se la tua bellezza sull'ultima giostra, come sopra due metri di onda, ogni mio desiderio si incendia. Stanno rotolando, amore mio, queste stagioni come sassi in un torrente, come fanno i nostri sogni. Se tua bellezza riescono a commuoversi. Sto parlando della De Filippi. Allora intanto andiamo per ordine. La semifinale di Italia's Got Talent si è svolta tra colpi di scena a suon di televoto per 24 concorrenti. A sorpresa per la seconda volta nel programma, Maria De Filippi poi è scoppiata a piangere, commuovendosi intanto per il numero dell'acrobata Devin De Bianchi, che poi fra l'altro ha passato il turno e quindi sarà in finale. L'autrice e conduttrice si è scusata più volte, mi dispiace, diceva, lo show si aggiudica uno share pari, una share, scusate, media del 25,89%, pari a 5 milioni e 700 mila, che non sono pochi, di telespettatori. La De Filippi aveva iniziato a commuoversi rivedendo la performance al piano dell'anziano maestro De Lucia, poi con l'ingresso di Devin l'emozione si è fatta ancora più evidente. Rudy ha cercato più volte di consolare Maria, che è dispiaciuta, continuava a scusarsi, non so cosa mi sia successo. Il risultato che conta per il programma è quello che consente a Canale 5 di mettere a segno un'altra vittoria negli ascolti di prima e seconda serata. In prime time Canale 5 registra 5 milioni 700 mila telespettatori con il 20% di share, mentre in seconda serata con 4 milioni 155 mila telespettatori ottiene il 28% di share.

teme il sogno di sposarsi alla natura, di diventare padre. Il pensiero che per un giorno di lavoro c'è chi ancora più diritti di chi ha creduto nel paese del futuro. No, questo no, non è l'inferno, ma non comprendo com'è possibile pensare che sia più facile morire. Io no, siamo in perfetto orario con la tabella di marcia, perché dopo Emma, con questa sua nuova canzone Non è l'inferno, è il momento di ospitare la redazione, sentire cosa è accaduto e poi torneremo con un flashback. Quindi un disco che ci riporta, sto dicendo un disco, un disco che ci riporta On the Road Flashback. è la canzone dei Nomadi, io vagabondo che sono, io vagabondo che non sono. Fra l'altro credo sia arrivata questa notizia che avevo davanti poco fa, il fatto che sia arrivata una nuova voce all'interno della band dei Nomadi. Adesso vedo se riesco a ribeccarla, perché era quanto interessante la notizia. Infatti si chiama Cristiano, il 25 e il 26 febbraio si è svolto a Novellare l'annuale raduno dei Nomadi per celebrare il 20° tributo ad Augusto Daolio. Per la prima volta è stata presentata la nuova voce dei Nomadi, si chiama per l'appunto Cristiano, ma qua ancora era la vecchia voce, quella classica, quella originale del gruppo. Come la va? Siamo ormai nella seconda ora insieme, quindi sino alle 19 vi terrò compagnia. Questo è On The Road, c'è Roby Dontori con voi, primo appuntamento settimanale, oggi lunedì 27 febbraio. Non vi preoccupate, no, perché dico non vi preoccupate, è tornato di nuovo il brutto tempo, non vi preoccupate perché credo durerà soltanto oggi e domani, pochissimo dovrebbe durare. Poi credo che ufficialmente dovrebbe arrivare il bel tempo, ma quando arriva il bel tempo? Poi è strano, no, perché ieri è stata una bella giornata, ieri io mi sono dedicato al barbecue, ho avuto ospiti a casa, un bel barbecue, sono stata tutta la giornata a maniche corte, no? Faceva caldo, e oggi 10 gradi in meno rispetto a ieri. C'è Emil Sandé, questa è Heaven. pressione di restare sempre al punto di partenza e chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza. Considerare che sei la ragione per cui io vivo, questo è o non è amore. Cercare un equilibrio che svanisce ogni volta che parliamo e fingersi felici di una vita che non è come vogliamo. E poi lasciare che la nostalgia passi da sola e prenderti le mani e dirti ancora. Sono solo parole, sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole. Sperare che domani arrivi in fretta e che svanisca ogni pensiero. Lasciare che lo scorrere del tempo renda tutto un po' più chiaro. Perché la nostra vita in fondo non è nient'altro che un attimo eterno, un attimo tra me e te. Sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole, parole. Ma quanto è bella sta canzone, eh? Mi piace più di quella di Emma che poi ha vinto Sanremo. Lei credo sia arrivata al secondo posto, davvero bellissima questa di Noemi. 18 e 17, ancora buona serata sulla radio che si sente e si vede, CRM Happy Radio, con Rovinatori anche per oggi insieme sino alle 19, quindi ormai nella seconda ora insieme, una quarantina di minuti da trascorrere insieme. E poi potete continuare a segnalarcela la vostra musica tramite il nostro profilo Facebook CRM Happy Radio o eventualmente il nostro sito internet crmpradio.it. Potete soffrire anche nella nostra linea SMS al 335-5637-251 e poi naturalmente la linea più diretta 0921-923292. Devo salutare Annalisa, Maria e naturalmente Antonella, mi hanno richiesto un disco. Se fa freddo qua, credo che in quel di Gangi faccia ancora più freddo, ma fatemelo sapere ragazze, perché normalmente quando io arrivo in alta quota vado sempre a soffrire un po' il freddino. Poco poco, dico poco poco, non tanto poco. Alexander Stan. Loro mi hanno richiesto questo nuovo disco di Alessandra Stan, si chiama One a Million. Hey, you're one in a million. In my heart feeling love, you're so brilliant. Girl, I've missed your love and your feelings, hon. I never knew that you were my special one. But since you left me, I was the lonely one. Looking for that girl, one in a million. To dance with you tonight while we chilling, hon. So I guess I finally found my billion. Million, 'cause love can bring me. aliens. Girl, I've missed your love and your feelings, hon. I never knew that you were my special one. Since you left me, I was the lonely one. Looking for that girl, one in a million, to dance with through the night while we chilling, hon. So I guess I finally found my billion. It seems like I've been lonely when you're gone. One in a million, una in un milione, o una in un milione, poi a voi la scelta. Lei è quella di Mr. Saxo Beat, il ritorno di Alessandra Stan, 18 e 22 all'interno di On The Road. Grazie a Maria, Annalisa, grazie a Antonella. E poi a proposito di saluti, devo salutare anche Lulu, la mia amichetta Lucia. Ciao Lucia. Poi devo salutare anche Nadia, devo fare i saluti, devo farlo, è d'obbligo fare i saluti, salutare gli amici che sono dall'altra parte ogni giorno, quasi quotidianamente, ad ascoltare la nostra radio, soprattutto On The Road. Vi regalo i Mattia Bazar, il nuovo Sei Tu. Mattia Bazar, nuovo singolo direttamente da Sanremo. Questo era nella categoria vecchi volponi, gli artisti. Mentre invece si è messo bene in mostra questa ragazzina che si chiama Celeste Gaia. È già diventato un tormentone la sua canzone. Semplicemente Carlo, stavo chiedendo,

18:31, siamo pronti per effettuare il collegamento con il mio. Ma tu sei un personaggio serio, Rambo. Signori, a tutti. Sei messo male, ti si sente a singhiozzo, Rambo. Tanto Giotti, sta parlando Tanto Giotti. Ecco perché. Tiro rete, Napoli in torneo. Sì, ma parla della Juve, parla di quello che è successo a... A mezzanotte sabato, Roberto. Dimmi. Allora... A mezzanotte. E allora, intanto parliamo, Rambo, dobbiamo parlare di casa nostra prima, della Juve. Quello sì. Che è successo sabato sera, effettivamente c'era il gol per il Milan, no? C'era il gol della Juventus. Sì, c'era, però c'era il gol della Juventus pure. C'era il gol, quindi uno pare, però loro no, dicono... Alla fine... Secondo me, però, Roberto, ha sbagliato Conte. Sì, vero? Perché secondo me è la formazione giusta. No, non c'è storia. Io finisco 3-0 per la Juve, non c'è niente a sperare. Ma io l'ho sempre detto, lui ha una formazione, con quella formazione ha fatto sfracelli, ora perché cambiare, vero che sì. Un po' di turnover, ma il turnover non puoi farlo contro il Milan, voglio sì, dire. Questo sì. Allora, intanto c'è Nadia che ti saluta, c'è Lucia. Ciao, Nadia! Lucia, Antonella. Ciao, ciao a tutti. Anna Maria, saluti. Ciao a tutti, va bene a tutti. E allora, parliamo di calcio, Rambo. Sì. Poi il secondo tempo la Juve ha giocato meglio, no? Molto meglio. Sì, io mi sono visto il secondo tempo, l'abbiamo vissuto. Soprattutto quando è entrato Madre mia. Madre, ha cambiato tutto. Cambiato tutto. 1-1 però. Pure che abbiamo giocato senza giocatori, diciamo. Che palla a gol abbiamo avuto, quello cioè, che è stato davanti alla porta e ha parato il portiere. Quagliarella, ma infatti io dico una cosa, che se loro non avessero avuto quel regalo di Bonucci, sì. Che gli ha passato la... Ma quando segnavano, Rambo? Loro mai. Ma non avrebbero mai segnato. Forse nel 2020 forse segnavano. Nel 2020. Poi... Ma perché Roberto, scusa, ma il Milan è chi è, scusa? Ma che ma noi non lo temiamo per niente, su tre confronti siamo avanti noi, due vittorie e un pareggio. Non ci spaventava nessuno, vedi. Quest'anno no, Rambo, lo possiamo dire. Forse l'avevamo avuto il scudetto quest'anno è qua, ha pensato cane, non vuole questa volta. Non è venuto. Già, secondo me ora è un po' l'invidia che li lascia parlare perché... No, io sono andato a vedere una partita Caronia, iniziativa di parte, mi pare che era una squadra, bellissima stata. Bellissima. Era del cauce, quella partita c'è stato tutto. Ma tutte che è la prima categoria? No, era seconda categoria. E invece... Ho visto una partita così, tutta. Dimmi una cosa, la prima categoria voi che avete fatto? No, abbiamo pareggiato grazie all'arbitro. Come grazie all'arbitro? Grazie all'arbitro. C'è stato, allora, alla fine del primo tempo c'è stato un calcio di rigore, era giusto. A voi. Ha preso sul piede, diciamo, vicino alla porta. Ma scusa, ma voi prendete un calcio di rigore a partita a favore? Ogni sì, ma il rigore c'era, Roberto. C'era. Però la calciata l'ha presa per il piede e mi si è pallone. Perfetto. Dico, se lo dici tu, io so che... Poi nel secondo tempo, all'inizio del secondo tempo, abbiamo giocato la porta di sotto. Poi è un gran giocatore a rete, quello che ha fatto il fallo e l'arbitro ha fatto due seguire, dice così. E ne abbiamo due. Poi, c'è un calcio di rigore, sì, sta facendo calcio di rigore, quello ha passato l'uomo, dice no, dentro l'area, l'ha fermato, niente. Niente. Prosegue. Niente, prosegui. Prosegue. infatti quando ci hanno fatto il gol al 90esimo, ho trasito campo. Tu sei stato in campo. Sono visto che c'è un calcio da ci fa la palla. Rambo, ma che fa? Ma entri in campo? Entro nel campo, io sono il custode, sono entrato in campo. Ma non puoi permetterti, ma che sei? Io non lo metto, un anno campo, sono avuto. Ma scusa, ma tu sei... Quando io, poi che fai venire fuori? Ma tu sei il custode del campo, ma non puoi entrare... Però devi dire l'orecchio. Ma non puoi entrare dentro il rettangolo di gioco. Ma quando io, no, sono avuto un anno campo. Ma che comandi tu? Questo sono... Sento campo. Sono cose... Ma Rambo, sono cose antisportive queste. Io le sto dirigendo, io sono andato là per settimana e poi non l'hai visto, il fallo là. È lui che ti ha detto. Se è fallo, mi hai visto fare un gol. Io ti ho fermato, che buio ci vuole. Ma mi hai visto bella squalata, rignata e buona. E finito è finito tutte le cose. Sai che il Cefalù ha vinto invece, no? Sì, poi alla fine, quando l'abbo sei andato, gli ho detto, fatti l'esame coscienza oggi. Gliel'hai detto. Era di Palermo, l'abbo. Gliel'hai detto che... Venga, era Palermo, era. Senti. L'abbo di Palermo, era. Senti. il sai che il cefalù la giovanile? Sì, a me il cefalù per tutti, ma mi è finito pareggiato a Longe, perciò ormai è finito. Ha pareggiato, quindi 1-0. A me finiro. Ma quanti sono? 9 punti di distacco adesso? 10 punti. Se ne hanno, mi pare, 34 e... Aspetta, mi pare che... Se ne hanno 42, 41, non mi ricordo. Perfetto, quindi 8-9 punti di distacco, va bene. Beh, sono una 8 punti, paga solo. 8 punti, ti danno una certa tranquillità, no? Vabbè, sabato... Sabato vieni. Oh no, sabato Cefalù va a Capodorlando, vero? Sì, vabbè, Capodorlando ha perso ieri con San Basile, perciò noi abbiamo vinto noi con loro, perciò. Vabbè, basta. Cefalù penso ormai ci va, vabbè, ci va pure per vincere, ci va per perdere loro. Certo. La devo giocare, sembra una buona squadra quella. Mentre poi ieri sera io mi aspettavo che tu mi chiamassi ieri sera e non mai chiamato. Ieri sera non ti ho chiamato perché ero libero uscita. Ah. Ma dov'è chiappa chiappa? L'hai vista la partita Napoli-Inter? No, io la sto presa per la giornata. Siamo alla fine del primo tempo e l'ho detto al 10-5, stavano 0-0. È finita 1-0 per il Napoli. Poi ho visto stamattina il giornale, bello, 1-0, c'è scritto l'Avessi. Ma dimmi una cosa, ma com'è che non prende l'iniziativa di andare via a Ranieri? Niente. Ma va come, perché va a puttare al primo punto? Ancora pignata, però questo, ancora c'è il ritorno di Marsiglia, ancora la scippare scuopoli ciappole. Va bene Rambo, abbiamo fatto un po' intanto ti voglio fare un'altra domanda. Dimmi. Grande squadra di pallavolo femminile, hanno rimontato la partita 3-2, perdevano 2-0, e hanno rimontato 3-2. Il primo tempo hanno perso 25. Aspetta, non mi ricordo più. Vabbè, ma Rambo, ma come fai a non ricordarti? Secondo set hanno perso 25 a 15, pare. E poi il secondo set è finito 33-31. Poi siamo andati su 2-1. Poi due pari. 25-23. Poi 20, l'altro è finito 25-21. 2-2. E poi siamo andati tre break 18-16. Mamma mia, quindi avete vinto. Grande prestazione delle ragazze. Ma tu dillo perché vai a vedere le ragazze giocare, perché? Perché io sono con loro, con la squadra mia. No, che le guardi, vero? No. No, io no. Va bene. Forza Roma, non mollare mai. Rambo, sono in ritardo, devo mandare la pubblicità. Vai la pubblicità. Chiamami la... Ciao a tutti. Chiamami la pubblicità. Non basta un raggio di sole, un cielo blu come il mare, perché mi porto un dolore che sale, si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perché. E non arresta la corsa, lui non si vuole fermare, perché un dolore che sale fa male. Ora allo stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è. E quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché. Né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore continuerà. Lo stomaco ha resistito anche se non vuol mangiare, ma c'è il dolore che sale fa male. Arriva al cuore, lo vuole picchiare più forte di me. Prosegue nella sua corsa, si prende quello che resta ed in un attimo esplode e mi scoppia la testa. Vorrebbe una risposta, ma in fondo risposta non c'è. Il sale scende dagli occhi, il sole adesso dov'è? Mentre il dolore sul foglio è seduto qui accanto a me, che le parole nell'aria sono parole a metà, ma queste sono già scritte e il tempo non passerà. Ma arriva la notte. Questa parte va in giro in cerca dei suoi, perché né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore poi continuerà. Arriva la notte, e resto sola con me. La testa parte, va in giro in cerca dei suoi, perché né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. L'amore può allontanarci, la vita poi continuerà. Questo invece è il nuovo di Arisa. Avete visto com'è cambiata Arisa? Ma come? Ora proprio che Baldini l'ha presa di mira nella famosa pubblicità, no? Telefonia, eccetera, eccetera. Si chiama La Notte. E allora, non so se avete visto quel fuori programma nel corso dell'ultima puntata di Chiambretti, Chiambretti Sunday Show, mentre in studio c'erano le tre modelle ucraine Femen, accusate questa volta di aver disturbato una sfilata di Versace, sono entrati due militari della Guardia di Finanza con un ordine di rimpatrio per le ragazze. Io effettivamente ho pensato fosse una cosa un po' strana, no? Che la finanza entra così in una trasmissione televisiva e con i fogli in mano, sembrava un po' troppo recitato, tutto finto in realtà, ma nelle femmine e negli altri ospiti, come Selvaggia Lucarelli, erano stati avvertiti e le modelle hanno reagito denudandosi, e quelle poco gliene fregava. Chiambretti è apparso colto di sorpresa e innervosito, ha tentato subito di sedare gli animi e di calmare la situazione, mentre le femmine, per nulla intimidite, urlavano e protestavano a seno nudo e si adoperavano per portarle via dallo studio tra le proteste del pubblico. Certo, il pubblico voleva che le ragazze rimanevano in studio, era un gran bel vedere. I militari erano in realtà poi due attori del programma e lo scherzo sarebbe stato scoperto solo una volta dietro le quinte. Lo scherzo era indirizzato alle ragazze, quindi alle femmine, che non hanno capito nulla realmente. Però è stato carino, fatto bene, anche se poi sembrava un po' troppo recitato, così che primo acchitto me l'ha sembrato un po' troppo strano, una cosa del genere. Poi invece vi parlerò di quest'ultima trovata di Lorenzo Cherubini su Twitter, intanto ve lo faccio sentire, la sua nuova ora. Dicono che è vero che quando si muore poi non ci si vede più. Dicono che è vero che ogni grande amore naufraga la sera davanti alla TV. Dicono che è vero che ad ogni speranza corrisponde stessa quantità di delusione. Dicono che è vero, sì, ma anche fosse vero, non sarebbe giustificazione per non farlo più, per non farlo più ora. Dicono che è vero che quando si nasce sta già tutto scritto dentro ad uno schema. Dicono che è vero che c'è solo un modo per risolvere un problema. Dicono che è vero che ad ogni entusiasmo corrisponde stessa quantità di frustrazione. Dicono che è vero, sì, ma anche fosse vero non sarebbe giustificazione per non farlo più, per non farlo più ora. Non c'è montagna più alta di quella che non scalerò. Non c'è scommessa più perfida di quella che non giocherò. Dicono che è vero che ogni sognatore diventerà cinico invecchiando. Dicono che è vero che noi siamo fermi, il panorama che si sta muovendo. Dicono che è vero che per ogni slancio tornerà una mortificazione. dicono che è vero, sì, ma anche fosse vero, non sarebbe giustificazione per non farlo più, per non farlo più. Ora. Non c'è montagna più alta di quella che è lo scalero. Non c'è scommessa più persa di quella che non giocherò. Ora. Che bello che questo nuovo album e quanti bei singoli ci ha regalato Jovanotti. E allora su Twitter posta pensieri e messaggi per i fan, così per rendere omaggio al popolo del social network del momento, Jovanotti lancia la Tweet Dance. Al termine del concerto torinese, Lorenzo si è esibito nel suo camerino insieme ad alcuni musicisti in un ballo. Prima di andare in albergo e vedere un film di Quentin Tarantino ha postato il video. Il video è diventato subito oggetto di culto e di retweetaggi da parte dei followers. Al termine dell'ultima atta torinese, Jovanotti ha così voluto fare un regalo ai suoi ammiratori prima di andare in albergo. E lo dice ancora lui su Twitter: passare la notte davanti alla televisione e vedere Jack Brown di Tarantino su Rete 4, lui l'ha visto, è un gran bel film, mi sa che arrivo in fondo, perché era ancora pieno di adrenalina, era carico, dopo il concerto ha visto il film fino alla fine, almeno così lui dice, poi aggiunge: questo film l'ho visto tante volte, ma è come un vecchio amico, fa piacere rivederlo almeno una volta l'anno. E se andate su Twitter, se andate sul suo indirizzo, io non so Twitter perché non ci sono mai stato, su Twitter potete vedere questo video che ritrae proprio Jovanotti con questa nuova nossa, nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein. Um sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Deba! Sábado na balada, a galera começou a dançar e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein. Só vocês agora. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Ai, se io ti pego. Ma il tormentone del momento, no? Questo ballo che poi va fortissimo in questo periodo. Devo salutare perché non erano all'ascolto e si è staccato per un attimo il PC, visto che loro non ascoltano, ma guardano la diretta su crmpiradio.it e devo farlo. Antonella, Annalisa e Maria, ho rifatto il saluto, così, hai visto? Perfetto, siamo quasi addirittura di arrivo. Ultimo disco di oggi, poi saluti finali, poi ci vediamo a casa. La chiamano realtà, questo caos legale di dubbie opportunità, questa specie di libertà. Genera, ci vediamo a casa, va bene, però non ho l'indirizzo, dovevi lasciarmi lì. Siamo quasi addirittura di arrivo, devo salutare tutti quanti quelli che anche per oggi hanno scelto di seguire On The Road con Roby D'Antoni, che vi dà quindi l'appuntamento a domani a partire sempre dalla stessa ora alle 17, ma soprattutto devo salutare gli amici che seguiranno poi la replica stasera a partire dalle ore, dalla mezzanotte sino alle 2. Poi Rambo mi chiedeva il favore di salutargli Ingrid e Alessia, sono due amiche. Lui voleva salutarle, ne approfitta della radio per arrivare alle due ragazze. Va bene, bravo Rambo, bravo. Poi che dirvi, è stato bellissimo come al solito. Anche Lucia devo salutare, Nadia, Antonella, Maria, tutti quelli che sono stati, Annalisa, Pasquale, Ignazio, l'amico mio dall'America, ogni giorno è qua con noi, che bello sentirli così vicini, è una cosa bellissima. È tutto, vi lascio con l'informazione e poi seguire la nostra musica che continuerà naturalmente a deliziarvi. A domani.